come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Diceva extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a pigliare, voglio un pianeta su cui ricominciare. Toh! Tutti chiedono, caro Parenzo, le dimissioni di Berlusconi. Cioè, tutte le dichiarazioni dei leader politici italiani, naturalmente non di centrodestra, sono concentrate su un punto. Pare che se Berlusconi si dimette o se ne va, tutto è magicamente risolto. Tutto si risolve in un secondo. Le sorti dell'Italia cambiano improvvisamente. Tutti dicono la stessa cosa. Bersani, naturalmente, sentiamo Bersani. Se non si annuncia una novità politica, come altri hanno fatto in Europa, se non si annuncia un percorso politico nuovo, la fiducia non tornerà e gli italiani butteranno al vento i loro sacrifici. Bisogna parlare chiaro e forte. Berlusconi deve togliersi di lì o ci porterà a fondo. A fondo. Poi naturalmente c'è Veltroni e il più sobrio Cesa. Ma tu te lo ricordi Cesa? Signor Cesa? Da quanti anni c'è? Signor Cesa? Cesa. Cesa dell'UDC, no? Il segretario dell'UDC, cioè l'uomo di Casini. Cesa. Cesa. Da quanti anni c'è? Che è segretario di un partito che però ha il nome di Casini nel simbolo, una cosa meravigliosa. Cesa, anche lui. Noi non meritiamo tutto questo. Basta, basta, basta. Berlusconi. Berlusconi si comporti da uomo politico e ancor prima da italiano responsabile, si dimetta e un minuto dopo guidi il suo partito a dare una mano a far nascere un nuovo governo di unità nazionale per risollevare le Cesa che solleva, che, no, che cerca di animare le folle. Come lotta, che è una contraddizione in termini, eh? Sì, in cioè, Cesa che cerca di esaltare le folle, che cerca di suscitare. È una cosa pazzesca. Cesa. Il moderato Cesa. Cesa. Ma perché lo dici così? Cesa? Cesa. Fini, fini, fini, fini. Sentiamo, naturalmente, anche lui lo dice da un anno, da più di un anno. Via Berlusconi, anche lui con questa parola magica, se va via Berlusconi tutto si risolve. D'altra beh, parte, Fini, non è che tutto d'altra parte si risolve, Fini, però... se non dice questo, che dice? E che deve dire? Che ha da dire? Solo, lo dico anche in maniera pesante. Che ha da dire? No, dimmelo te, Parenzo. Che ha da dire? Perché tu non l'ascolti. Cioè, ieri ha parlato Fini, ma se n'è accorto qualcuno che ha parlato Fini? A me, beh, perché cioè, ha creato discussioni, cose, eccetera. Ma è adesso, successo qualcosa. Pensare che la gente al bar discuta di quello che no, dice. No, ma è successo qualcosa. Ieri anche ha parlato, di Cesa, discute qualcuno. Come scrive il mio amico Diego Destro nel suo bellissimo blog. Che scrive il signor Dab? Ha scritto una cosa. Ieri ha parlato Fini, non se n'è accorto nessuno. È la realtà, non se n'è accorto. Dillo pure te che sei un simpatizzante di Fini. Non se n'è accorto nessuno. No, ma io simpatizzante di Fini. Non se n'è accorto. Ti querelo subito, ma io... Sentiamo. È indispensabile continuare a dire che all'Italia serve un nuovo governo, ma soprattutto serve un nuovo premier. Un nuovo premier che non abbia come obiettivo quello di resistere, resistere, resistere, magari per continuare la sua crociata contro la magistratura. L'Italia ha bisogno di un governo, che di un Presidente del Consiglio, che 24 ore su 24 pensa a governare, governare, governare. Beh, ma non è una stronzata però. Ma sì, cioè, ma... non è che ha detto una cosa. Ma cosa secondo no, te? Dice, cosa ha detto Finetto? Semplicemente Berlusconi dovrebbe pensare a governare. Come? Allora, prima di sentire Berlusconi, sì. Anzi, no, sentiamolo. Va, sentiamolo. Abbiamo già un ospite pronto che ci sta aspettando. Cioè, non lo vedo l'ospite. Dov'è? No, non lo abbiamo. Collegato, che vedi? Ah, che devi vedere? Tu sai no, che è la radio, no? Sì, sai che è la radio. Questo. Abbiamo già un ospite pronto. Siamo qui vabbè, in studio. Berlusconi, aiutai una famiglia rovinata dai giudici. Questo ha detto questa mattina. Questo fai bene a ridere in questo caso, fai bene. Chiedo scusa. No, no, fai bene. Com'è la risata? Com'è la risata? Berlusconi aiutai famiglia rovinata da giudici. Una cosa meravigliosa. Vuole che io abbia timore di andare a incontrare dei magistrati per un caso nel quale ho solo aiutato una famiglia in difficoltà, come ho fatto tante volte, e in più da testimone li incontrerei. In questo caso si tratta tra l'altro di una famiglia con figli piccoli, con un'altra famiglia a carico, con una madre a carico, che proprio a causa dell'intervento dei magistrati è passata dal benessere alla miseria. Ora, non credo davvero che sia un reato aiutare chi ha bisogno. Beh, noi siamo stati a Bari nel fine settimana e tutti ci hanno raccontato che certo. C'è tutti, poi naturalmente bisogna vedere chi, ma comunque molte persone ci hanno raccontato che questa famiglia Tarantini più moglie non è che proprio sì. Sia stata rovinata dai giudici, insomma, perché aveva un tenore di vita piuttosto elevato. 30.000 euro di spese allora, dal macellaio, signor Tarantini. Ma sì, che cazzo di carne si comprava, signor Tarantini? Lasciato in... Ma quanta carne si comprava per pagare 30.000 euro di bistecche? Ma che bistecche sono, questa amica la signora Nicla Devenuto, come si chiama? La moglie, la signora Nicla. La signora Devenuto, sì. 30.000 euro dal macellaio. Il senatore Maurizio Gasparri, buonasera. Buonasera a voi, come sta? Grande Gasparri, grande lottatore, capogruppo del PD del Senato. Senta Gasparri, vogliamo sentire il signor Santoro che pare che sì. Voglia 10 euro per andare in onda. 10 euro per andare. Lei darebbe 10 euro a Santoro per andare in onda? Sinceramente no, ma se vuole andare in onda, vada in onda. Chi vuole glieli dà. Non è mica obbligatorio, non credo che ci debba l'obbligo di quello per fortuna euro no. Per non c'è in finanziaria, chi vuole paga e chi non vuole non paga, come uno si acquista un giornale o un libro, uno sceglie quello che vuole comprare. Ecco, ma le pare un'iniziativa sensata quella di Santoro, cioè quella di chiedere lui ha fatto le sue scelte, ha accettato di andare via dalla RAI accettando un'offerta molto remunerata, sì. Di diversi milioni di euro. Non ha chiuso l'accordo con la SEC, neppure ha trattato a lungo, e quindi non può dire che non aveva i luoghi dove trasmettere. Ha fatto questa scelta evidentemente per una maggiore autonomia internet, sulle televisioni locali, esatto. Per sapere di chi vuole, darà un sostegno economico. Mi sembra tutto sommato una scelta sua di libertà, e chi vuole apprezzarla paga, chi non apprezza non paga. Dunque, come Gasparri dice, un giornale, no? fa bene Santoro, cioè apprezzo Santoro perché almeno no, è una sua scelta, è come uno che pubblica un libro o un giornale, fa l'editore di se stesso, al lettore o allo spettatore o all'acquirente, insomma la possibilità di scegliere. Ma lei che lui, come hanno detto oggi alcuni, rispetto al servizio pubblico aveva un po' una sua anomalia. Ma lei che è un vero liberale, Gasparri, io la conosco da tempo, lei è un vero di cultura liberale. No, è di scuola liberale, che è la scuola di Friedman. No, è un liberale. È un puro liberale. Dica Gasparri, che è un vero liberale, sono pronto a dare 10 euro per la libertà di informazione. La dica, ci faccia contento. No, ma per la libertà di informazione posso dare pure 10.000, ma non li do a Santoro, voglio dire. A Santoro 10 euro non glieli darei. Che la pensano come me, che non hanno avuto la possibilità di accedere a emittenti né pubbliche né private, che sono stati esclusi, discriminati. Per la libertà uno dà anche la vita, ma non per solo quella di Santoro. Ma chi è stato discriminato? Chi è stato discriminato? Che non... Ci sono tanti che non hanno avuto possibilità nel corso degli anni di scrivere su giornali importanti, che non hanno avuto trasmissioni televisive se non per piccoli scampoli, che avrebbero avuto la possibilità di esprimersi come altri. Poi doveva essere pubblico a scegliere. Penso ai veneziani, ai Buttafuoco, ad altri, che francamente non mi pare abbiano avuto grandi tribune televisive a disposizione. Cioè, sono altri discriminati. Lei dice sono altri discriminati, non Santoro. Comunque lei 10 euro non li paga. Santoro da quanti anni è che sta per le televisioni pubbliche, private? No, perché fa ascolto, funziona. Quindi, dopodiché poteva, ha accettato di andare via dalla RAI sottoscrivendo un'intesa che gli ha portato un paio di milioni di euro, non so quanti. Un paio di milioni, nella trattativa, l'abbiamo tutti seguita sui giornali, con la 7, non si è messo d'accordo perché non voleva sottostare a regole editoriali che quell'editore voleva proporre, sapere uno che cosa trasmette, credo che ci siano, insomma, delle cioè ha fatto bene Stella, secondo ha fatto bene il signor Stella di è della un problema di Stella, non è un problema mio. No, così da esterno, da esperto di comunicazione. Se uno vuole lavorare con un editore ci sono delle regole. Se non trova accettabili quelle regole fa altre cose nella vita. Comunque 10 euro di Stella. Non è che Stella lo mette lì, la politica di Stella e l'amministratore di una televisione che appartiene a una società privata e che evidentemente vuole delle garanzie. Io non lo so, voi lavorate da un editore privato, non lo so quali tipi di accordi, ognuno fa quello che ritiene, insomma, no? E Santoro non ha voluto accettare, non ha accettato. Dunque lei, diciamo, fosse nei panni di ha fatto bene Stella da parte sua a porre questo tipo di paletti. Non faccio questo mestiere, quindi non so, conosco Stella, l'ho visto un paio di volte in vita mia molti anni fa, da quando fa l'editore di televisione, non l'ho visto, non ci ho parlato, non so quali siano i criteri, però trovo normale che se uno gestisce una qualsiasi attività chieda a quelli che ci lavorano dentro una condivisione di indirizzi, sapere cosa succede. Perché il mezzo anche le scalette? Anche le scalette? Ma la scaletta non mi sembra una cosa scandalosa chiederla. Comunque, ripeto, non faccio l'editore. No, certo, comunque a lei non sembra scandaloso. Credo che se lavorassi per una mi chiedesse la scaletta non mi sentirei meno mato da questo fatto. Certo. Del resto gli editori investono, fanno esistere gli strumenti con i quali poi chi comunica può parlare, può comunicare con la gente, non mi sembra uno scandalo. Allora, sentiamo appunto Santoro, ridateci Masi, Stella voleva la scaletta. Dramma Santoro, dice lui, dice, ridateci Masi, Stella voleva scaletta. Perché un'azienda che vede schizzare del 20% le sue azioni in alto all'annuncio di un'operazione, questa operazione non la fa e il suo amministratore delegato dice un momento, io prima di consumare con la donna nuda stesa nel mio letto voglio vedere la scaletta. La scaletta? Ma ridateci Masi, cavolo, che perlomeno ci faceva ridere. E poi 10 euro e non ci piegheremo davanti a nessuno. Servizio pubblico, se voi ci darete 10 euro, farà una stagione con l'aiuto di imprenditori che sono qui presenti, Sandro Parenzo, Eta Beta, e con l'aiuto del fatto che ha aperto la strada dell'indipendenza che non deve piegarsi di fronte a nessuno. Traffico, torniamo subito con Maurizio Gasparri, David Parenzo eccoci. E voi naturalmente all'800 24 0024. Diceva extraterrestre. Eccoci qui 800 24 0024. Per concludere sulla vicenda Santoro Gasparri, Comizi d'amore, un titolo bruttissimo. No, Parenzo. Molto bello, Pasolini. Comizi d'amore, Pasolini. Una cosa orrenda. Bellissimo titolo. Avendo sentito questa frase di Santoro che avevo letto oggi sui giornali, non l'avevo sentito in audio. Sì. Credo che abbiamo una soluzione alla crisi che ci attanaglia. Perché ha detto Santoro, appena la 7 aveva cominciato a trattare con lui, il titolo era salito in borsa del 20%. Sì. Abbiamo una trattativa di tutte le borse mondiali con Santoro, sì. Così usciamo dalla crisi. Tutte le borse, da Wall Street all'indice sì. Nikkei del Giappone alle borse sì. Europee, salgono di 20 punti al giorno. Abbiamo risolto la crisi. Propongo trattative in borsa sì. Con Santoro ovunque. Così la borsa. Ma... mi pare che Santoro sia un po' affetto da protagonismo. È molto divertente, però quando parla Berlusconi, invece, qualche problemino sullo spread, caro Gasparri, c'è ogni tanto a borsa. Allora mettiamo Santoro online con lo spread con la borsa e vediamo poi come va il rapporto bot italiani e bond tedeschi. Senta, ma le piace il titolo Comizi d'amore? Bellissimo. Ma è una cosa terrificante. Ma sembra un po' fuorviante, perché finora Santoro di Comizi d'amore non è che l'abbia. E invece che ha fatto? Comizi d'odio? Speriamo che sia una inversione di rotta. Come l'avrebbe chiamato molto, lei? Come lo chiamerebbe? Tribunizio. Il programma di Santoro, come lo chiamerebbe? Lo chiamerei. Lei che è stato, che lei che è anche giornalista professionista, ha lavorato al Secolo, che titolo darebbe al format? Comizi d'odio, Santoro. Comizi d'odio, come... Gaspar... No, Comizi d'odio, no, insomma. Che titolo... Il fazioso. Bene, suggerimento, magari ancora lo accoglie. Il fazioso, magari non è male. Secondo te Santoro accoglie un suggerimento di Gasparri? Perché non è possibile? Beh, diventerebbe clamoroso. Uno che fa salire la borsa del 20% a botta, che vuole che parla con me. Borsa, il titolo della Telecom. Lo mandiamo direttamente da Trichet. A proposito di Trichet. Lei allora, hanno riferito, caro senatore Gasparri, che lei fa un'imitazione splendida. Una cosa molto divertente, molto molto divertente. Allora, lei ce lo può confermare, noi sappiamo che è vera, ce l'hanno detto diverse fonti, sa, facciamo i giornalisti come lei può capire chiaramente. L'ha scritto su un giornale, quindi non è che avete fatto. Ah sì, ma noi leggiamo pochi giornali. Abbiamo fatto indagini approfondite. Leggiamo pochi giornali in realtà. Tu forse questa cosa non l'ho letta. Mi era sfuggita. Lei ha fatto, a un certo punto ha chiamato, non so chi, forse il senatore Azzolini, o sbaglio? Sì. E ha fatto un'imitazione fantastica di Trichet, ma è vero? No, non era un'imitazione di Trichet. Gli ho fatto una telefonata a tarda sera dicendo che ero Draghi e che bisognava, come dire, inasprire la manovra. Siccome in effetti la manovra è stata poi inasprita, lui lì per lì ha creduto che fosse Draghi, anche se poi ha una telefonata successiva che gli era stata rivolta, ma ti ha chiamato qualcuno, ti ha chiamato Draghi, ha detto di no. Invece ha dissimulato e poi ha avvisato alcuni di questa telefonata. Anche poi Berlusconi, anche l'equivoco è stato dissolto rapidamente. Ma senta, come si fa Draghi? Bello scherzetto gli ha fatto. No, beh, bueno, guardi, non c'era una inclinazione della voce, solo che siccome la telefonata era venuta da un posto rumoroso e lui stava altrettanto in un posto rumoroso. Cioè, lei deve aver fatto, sono il presidente Draghi. Ha creduto per qualche minuto, però la cosa è durata lo spazio... un quarto d'ora. Lei sa già cosa diranno domani i giornali, no? No, ma già che hanno scritto sui giornali il su questa cosa di Draghi? Io manco l'ho letta. Dove l'hanno scritto? Gasparri scherza sulla crisi. Ma no, io me ne sto occupando come tanti da diversi Ma invece su Trichet che ha fatto? Tutta l'estate. Purtroppo la crisi è molto grave e non si sta risolvendo. Ho visto che anche oggi Obama ha fatto ulteriori annunci, nei giorni scorsi ha rinunciato ai suoi programmi anti-inquinamento. Un po' di inclinazione. Stanno rivedendo le agende in tutto il mondo. Senta, un po' di inclinazione sulla voce di Trichet, però l'ha fatta per fare l'imitazione di Trichet. No, non lo so come parla Trichet, perché non ho mai parlato con Trichet. Resiste su lei su questo resiste, però, perché invece al telefono, secondo me, lei con Azzolini, ma giustamente ogni tanto bisogna anche. Ma anche... guardi, noi stiamo lavorando settimane e settimane. Quanti insieme, ci possiamo permettere di scherzare, correggendo, rivedendo e certamente, siccome anche la Banca d'Italia ha fatto sentire la sua voce, probabilmente ciò che veniva detto non era poi così lontano dalla realtà. Ma è vero che Trichet ha la voce un po' tipo l'ispettore Clouseau, che parla tutto così, si lascia un po' la andare, banca centrale, non credo, non so neanche se parla italiano, la banca centrale Trichet. Europea allora? Non lo so, questo voi che siete più addentro di me andate a Francoforte o dove siete abitualmente Trichet, ma poi credo che faccia conferenze stampa. Non mi sono mai soffermato particolarmente sulla voce di Trichet. Però l'imitazione ad Azzolini, la voce di Trichet gliel'ha fatta? No, non gliel'ho fatta. Non gliel'ha fatta. E come ha fatto a far credere che fosse Trichet? Perché le ripeto, c'era un po' di rumore, poi è stato uno scherzo durato un quarto d'ora. Poi sai, in questi giorni oramai, sì, no? Tutto ciò che sembra paradossale sembra reale. La cosa più paradossale è che l'11 agosto la banca centrale cinese, la banca di un paese dove ci sono ancora lager, non c'è la democrazia, ha emesso un comunicato dicendo: paesi occidentali, fate le riforme liberali, se no non vi sosteniamo più. Un paese che non ha la democrazia, che non ha i sindacati, che non riconosce i diritti elementari, dice agli altri cosa devono fare in termini di riforme liberali. Uno anni fa si sarebbe messo a ridere e pensava che era uno scherzo. Ma la Cina detiene... invece è uscita sulle agenzie l'11 di agosto. Ma la Cina detiene il debito pubblico degli Stati Uniti. Ho capito. Dettala. Ma Berlusconi c'è magna la minestra in testa, amico mio. Va a Strasburgo perché scappa Berlusconi o perché va a spiegare la crisi in Europa? Nel momento in cui la Cina consiglia di fare riforme all'Occidente, potrebbe anche fare una piccola riforma in casa sua che si chiama democrazia e dare diritti ai propri cittadini, o no? O non siete d'accordo? Sì, ma lo scopre oggi che la Cina... non è che lo scopriamo oggi che la Cina non è un paese democratico. Anche quando i miei coetanei ci dicevano che Mao Zedong era l'obiettivo a cui arrivare... Ho capito, però dica al suo governo di non trattare più con la Cina. Era al centro degli slogan dell'estrema sinistra, non ero d'accordo già allora. Va bene, Gasparri, due punti, non tratterò mai più con la Cina. Perfetto. No, allora io non tratto con la Cina. Allora... io mica sono Santoro che penso di regolare l'andamento delle borse. Ho piena consapevolezza dei miei limiti. La Cina, difatti, non è che si preoccupa delle mie idee. Però io non ci rinuncio alle mie idee. Senta, Gasparri, ma Berlusconi va a Strasburgo? Dica la verità, lei che è sincero. Cioè, scappa da questi interrogatori. No, per me è un diritto, guardi, per me è un diritto, Allora, Berlusconi va a incontrare Barroso ed altre questo lo sapevo per illustrare questa cosa. Ma non c'era urgenza. Telefonagli, e come ha detto Barroso, l'incontro è stato chiesto giorni fa. Dopodiché le dico anche un'altra cosa. Berlusconi ci va per ragioni del suo incarico, ma le dico con chiarezza: che competenza ha la Procura di Napoli su eventi? Quello è un altro discorso. Sono indicati a Milano, a Roma o a Bari. Ma quello è un altro discorso. È che una Procura non competente sta montando questa cosa diffondendo alcune intercettazioni, non so se la Procura, ma è parte lesa Berlusconi in quel caso, in diretta. Ma quella è parte lesa, è parte lesa. Ma Berlusconi in questo caso è l'offeso, è la parte lesa. Berlusca dovrebbe correre subito. È la parte lesa di una indagine condotta da una Procura che a mio avviso non ha alcuna competenza territoriale. Credo che Berlusconi li incontrerà, ma se non li incontrasse io credo che sarebbe del tutto logico, perché quella Procura di Napoli esiste il concetto della competenza territoriale. Vabbè, questo però è una cosa che si decide nei tribunali. Parla, dobbiamo dare la linea al giornale radio, torniamo subito, se vuole torniamo tra un quarto d'ora. Caro Parenzo, la zanzara di nuovo in onda. Eh sì, Sì. Ci vogliamo sentire come riassume la giornata il TG3? Dobbiamo cambiare annunciatrice, però. Sì, io che qualche dici? Idea ce l'avrei per chi potrebbe diventare. Secondo me, Scilipoti. Esatto. Scilipoti che annuncia i titoli del TG3. Certo, si sottoporrà alle forche caudine, dici? Deve. Ma intanto ha fatto una dichiarazione. A chi ha detto? Oggi? Sì, oggi. A borse aperte? Sì, no, è chiusa la borsa. Di Milano. È aperta ancora New York. New York, però è ancora aperta. Ha detto: non sono d'accordo con la manovra, ma voterò la fiducia. No, ce la faccio più. Titoli del TG3. Cioè, ma non c'è più dignità. Titoli del TG3. E adesso i titoli del TG3 di Bianca Bellinguer. In Francia, esplosione in un sito di stoccaggio di rifiuti radioattivi a 250 km dal confine italiano. Un morto e quattro feriti. Tre anni fa denunciate lacune nella sicurezza. Sei morti nell'esplosione di una fabbrica di fuochi d'artificio vicino a Frosinone. Si cercano ancora dispersi e si temono nuovi scoppi. Nuovo tonfo delle borse europee spaventate dagli allarmi sulla Grecia, crolla Parigi dove c'è timore per la tenuta alle banche. Affonda la borsa di Milano, spread BTP Bund alle stelle, Bruxelles avverte l'Italia si prepari a nuove misure, cala anche la produzione industriale. Berlusconi non temo i PM, ho solo aiutato una famiglia in difficoltà, ma un pezzo di maggioranza spera in un passo indietro, Polverini ospita il TG3. Terzo interrogatorio per Tarantini, la procura di Napoli cerca una data in cui sentire Berlusconi come vittima del presunto ricatto. Primo giorno di scuola, pentole, coperti, fischietti per la serenata degli studenti al governo, 8 milioni di alunni alle prese con tagli e classi pollaio. Era un nano, già, ma un nano speciale. Un nano con un sacco di soldi, un nano sempre vestito bene, un nano che piaceva alle donne. Un nano, già, ma un nano speciale. Perché hai messo sta canzone? Ma ecco, lo sapevo che canzone? Scaricavi su di me. Io non... No, io la scelta, allora, musicale, l'ironia... i radioascoltatori devono saperla. Devono saperla. La scelta, la colonna sonora è interamente decisa dal direttorissimo. Dopodiché, siccome non sono un paraguru e mi assumo le mie responsabilità. No, però bisogna dire, io sono sempre restio a mettere in onda qualcosa che si riferisce alle, come dire, alle fattezze fisiche, alle... Ecco. Questo è Iannacci, però diciamolo. Iannacci. Non c'è nessun riferimento. Noi la utilizziamo per, da sottofondo, da alcune parole di Berlusconi. Ma eccolo per capire come mai. Sì, a me quando si rivolge a Berlusconi chiamandolo nano mi dà fastidio. Dopodiché è una bella canzone, questa, non c'è dubbio. Evocativa. Non si è la più bella quella dell'inizio. Extraterrestre, portalo via. No, è più bella questa. Ah. Più bella questa. Un sacco di soldi. Un nano sempre vestito bene. Un nano che piaceva alle donne. Mi piace anche in realtà. Ho 27 anni, Berlusconi, ho 27 anni, ad Atreio. È già stato fatto qualcosa, resta ancora da fare. Io personalmente, sapete l'età che ho, non mi piace di ripeterla, no, ma io la ripeto tranquillamente, la sapete tutti, no? Sì. Sì o no? 27 anni. Mi sbaglio sempre su, no? Mi sbaglio sempre, non ho la consecuzione giusta nelle cifre. Mi scuso. Un nano con un sacco di soldi. L'ennesima ricostruzione di Berlusconi, che cos'era? Il Bunga Bunga o le serate del Bunga Bunga. Sentiamo. Sempre davanti ai giovani del PDL, settimana scorsa. Quando si parla, come qualcuno parla, di Bunga Bunga, eccetera, ma il Bunga Bunga era una cosa innocentissima. Voleva dire, finalmente, dopo 15 giorni di lavoro, riuniamoci a raccontarci un po' di gossip, riuniamoci per stare allegri, riuniamoci, a me piace cantare, a me piace raccontare un po' le cose che si fanno, e poi facciamo quattro salti. Un nano speciale, un nano con un sacco di soldi. Ancora? Ma che roba è? E continua, cioè, ma che è sta è una cosa? Sorta di litania. Di litania, e non ho mai più fumato e giocato, solo... Io per altri due fioretti, uno credo a 27 anni, non ho mai più fumato e mi ha fatto bene. Tre, non ho mai più giocato, nemmeno al totocalcio. Quindi almeno queste tre cose ce le ho. Qualche altra cosa che non considero un vizio mi è rimasta e spero che mi rimanga negli anni. Applausi scroscianti. Ma quando fa così è il numero uno. Ma come si? Quando fa così veramente è un grande. Il problema è perché queste cose che dici ad Atreyu si chiama? Chi è Atreyu? Atreyu. È la festa di Giovanni Pidano. Sì, ma chi è il signor Atreyu? Non c'è nessun signor Atreyu. Non far arrabbiare la signora Meloni. Io le voglio bene, do un abbraccio, questo Meloni che adoro. Ma lo dice ad Atreyu. Va dal nostro amico Maurizio Belpietro a mattino 5 a raccontare la sua verità. E non capisco perché non va dal signor Lepore. Vabbè, è una cosa diversa, dai. Ma perché è diversa? È diversa. Perché i signori magistrati di Napoli non vogliono sentire la difesa di Cruciani difende Berlusconi. No. Attento Ghedini, Cruciani difende Berlusconi. No, sentiamo la versione di Cruciani. Sentiamo la difesa. Arrampicati. No, io non mi sto arrampicando. Arrampica su uno specchio bagnato. Arrampicati, sentiamo. Perché va da dal signor e Beautiful Stone? Diciamolo all'americana. Che è Beautiful Stone? Maurizio Belpietro. Woodcock, no? Sai che Woodcock. Sì, che Cossiga lo diceva sempre. Cosa voleva dire Woodcock? Cazzo di legno. Eh? Woodcock. Vabbè, lo diceva Cossiga. Si però. Può dire alle 19:23, sì. Woodcock. Secondo me si può dire. Ma perché? Beh, la domanda rimane. La difesa di Cruciani. Perché il signor Berlusconi va dal signor Atreyu a dire queste cose? Va dal signor Belpietro, giustamente, che lo intervista a dire queste cose. E dal signor Lepore non ci vuole andare. Visto che è parte lesa. Io voglio i matti. È parte lesa Berlusconi. Allora, è evidente che quelli della procura di Napoli Berlusconi non c'è il traffico adesso, lo vogliono rosolare bene. Ma è parte lesa. Ma quale parte lesa? Ma lo sai benissimo che non offesa. È così, è una buffonata. Quello che dice è di una gravità inaudita, è gravissima. E c'è il diritto di resistere all'assalto giudiziario con tutte le armi possibili. Questa è la mia teoria. Ma non c'è assalto giudiziario qua. Sì, ma come non c'è assalto? È colpito, è lui la vittima. Sentiamo, è la vittima. Sentiamo Vincenzo da Pescara. Fammi sentire Vincenzo da Pescara. Chi è Vincenzo? Vincenzo, un ascoltatore. Vincenzo da Pescara. Buonasera, Vincenzo. Buonasera. Dica. Tanto ero estasiato dal discorso su Berlusconi, che vabbè, sorvoliamo. Volevo parlare al riguardo di. Non sorvoliamo, che sorvoliamo? Non c'è niente da sorvolare. Entriamo, altro che sorvoliamo. Restiamo per terra, altro che sorvoliamo. Dica, allora. Niente, volevo dire che tutta questa ironia, ho sentito anche la telefonata di Gasparri su Santoro che cambia i mercati, le borse, cioè detto da uno come Gasparri, che insomma anche qui alla Zanzara viene trattato non tanto bene quando non è presente, diciamo, soprattutto da lei. Diciamo, volevo dire, dipende quello che dice, non è non c'è nessun pregiudizio. Esatto, proprio per quello che dice Gasparri. E niente, volevo solo. Io ho ascoltato questa discussione. Ma che voleva dire? Non ho capito quello che vuole dire, Vincenzo. Non dica una cosa che abbia un senso compiuto. Soggetto, verbo, complemento oggetto. Che ci sta dicendo? Volevo dire che detto da due giornalisti. Ma cosa? Comunque... detto cosa? Insomma, tutta questa ironia su Santoro. Ma non abbiamo fatto nessuna ironia, abbiamo fatto io non ho fatto nessuna ironia. Abbiamo chiesto a Gasparri cosa pensava di questa iniziativa di Santoro di far pagare, di raccogliere un po' di soldi dal suo pubblico, che è tanto, per mettere in piedi la trasmissione. E Gasparri ha risposto con ironia. Non siamo noi a aver fatto ironia su Santoro. E voi dietro a Gasparri. Ma che significa dietro a Gasparri? Ma lei lo capisce? Ma che cosa avremmo fatto? Ho chiamato, ho preso la linea, non me l'aspettavo nemmeno. Volevo dire solo questo. Va bene, tutto ma qui. Non si deve vergognare di quello che ha detto. Sto dicendo semplicemente. No, ma io non mi vergogno. Non è che siamo andati dietro a Gasparri. E abbiamo semplicemente chiesto a Gasparri. A Gasparri ha fatto ironia su questo. Pazienza, avrà fatto ironia. Che avremmo dovuto fare? Impiccarlo. Dietro a Gasparri. Ma che vuol dire dietro a Gasparri? Io non vado dietro a Gasparri. La denunzio, Se insiste, la denunzio. Spalle, vogliamo chiamarle così. Come spalle. Come spalle che di poi Gasparri. Da Cruciani me l'aspetto. Da Parenzo un po' meno. Ma ancora. Ma scusi, non ho capito. Se Gasparri. Gasparri fa ironia su Santoro, io che cosa dovrei fare? Dovrei prendere Gasparri per le palle, strappargliele o trascinarlo, non so dove, immagine, non me lo dica. Che immagine. Cioè, me lo dica cosa devo fare. Cioè, Vincenzo, abbia pazienza. Io, voglio dire, vabbè, vanno bene le critiche, ma che cosa bisogna... Non è andare dietro. Ho sentito ironia di Gasparri su Santoro, punto e basta. Ogni tanto abbiamo replicato. Ho capito. Comunque... cioè, a lei dà fastidio che Gasparri fa ironia su Santoro? E pazienza, le dà fastidio. Sa quante cose mi danno fastidio a me? Peraltro, per me è un'ottima iniziativa quella di Santoro. L'idea geniale, quella di fare questo palinsesto dove non c'è l'editore, ma l'editore è il pubblico. Un'idea geniale, bellissima. Va bene. Marco da Bologna, buonasera, signor Marco. Buonasera, io chiamo per l'apertura di questa sera in cui ha detto che sostanzialmente si fa male a chiedere le dimissioni di Berlusconi. Ma io non ho detto si fa male, ho detto che tutti dicono la stessa cosa. Le dimissioni di Berlusconi non cambia niente perché nulla. Non risolvono i problemi. Io credo invece che un grosso deficit di credibilità l'Italia ce l'ha proprio per Berlusconi, per un governo che non è stato per niente europeista, che ha accumulato figure... ha accumulato figure di cacca dall'inizio, con Maroni, la gestione dei clandestini e tutto una politica che tende a sminuire il valore dell'Europa. Noi da soli non contiamo niente. Ci ha attaccato la pippa dell'Europa questo signore. Sì. Ci ha attaccato il pippone sull'Europa. È una cosa pazzesca. Il pippone sull'Europa è una roba che... Alle 19.27, amico mio, chi è bloccato dal traffico? Da soli. Ma chi è bloccato dal traffico si suicida, amico mio, se gli fai a stare tutta la storia d'Europa. Europa. Ma vogliamo parlare di cose concrete o vogliamo fare... No, ma lei sta parlando di una cosa così, cioè, sta dicendo che noi non abbiamo credibilità in Europa perché c'è Berlusconi. Anche perché per Berlusconi, per la Lega, per la le politiche poco europeiste. Ma è una cosa pazzesca. Certo, ma perché poi l'Europa ti salvaguarda nella misura in cui tu fai parte di un sistema. Però no, elenchiamo le politiche europeiste. No, fermi che qui... No. Veramente, cioè, guarda, soli non contiamo niente. E noi abbiamo questi che sminuiscono, abbiamo gente come Gaspari che fa il fenomeno perché ha fatto la supercazzola con Trichet e non tirano fuori niente di veramente la supercazzola con Trichet non è male. Io rimpiango il periodo del 96-99 dove un governo di centro-sinistra ha saputo tirar fuori Maroni, ha saputo fare delle riforme strutturali forti, andare in tasca agli italiani perché bisognava farlo, però ha saputo ottenere dei risultati. Questi qua minimizzano e poi non concludono niente. Grazie. Grazie. Borsa, torniamo subito. 800 24 00 24. Vi faremo sentire un Ignazio La Russa, ministro della difesa, scatenato contro Andrea Agnelli, non per questioni che riguardano l'economia, la politica. C'è La Russa che parla di calcio. C'è La Russa che parla di calcio in un momento di crisi. Sì, a tra poco. Siamo qui 19.35, 800 24 00 24. La Zanzara si è spostato dallo studio al telefono. David Parenzo, dove sei? Alla metropolitana? Intanto già, no, col taxi. No, sono su Vega 37, ti passo il nuovo editorialista della Zanzara. Sì, come si... Te lo fa. È il signor... Angelo, nuovo editorialista, noto commentatore dei fatti dell'attualità politica. Te lo passo in diretta, eccolo. Grazie. Signor Angelo, buonasera. Buonasera. Allora, mi dia un flash così di giornata. Che cosa ha pensato oggi? Su che cosa si è incazzato come una bestia quando era in taxi? Ha sentito qualcosa che l'ha fatta arrabbiare? Ascolto poco la radio perché la rabbia non manca. Però devo dire, le cose che mi stanno infastidendo ultimamente sono quelle che riguardano il discorso economico. Mi dica una cosa sul discorso economico. Cos'è che la sta infastidendo sul discorso economico? Questa borsa che continua a perdere delle cifre immense. Quello si è capito. Purtroppo, guardi, non ho delle grandi competenze, però le dico, le preoccupazioni sì. Basta, sì. Solo preoccupazioni? Solo preoccupazioni e non lo so. Non ha... Berlusconi come lo vede lei? L'ha mai votato? No, non ho mai votato Berlusconi e non lo vedo come una persona... diciamo tanto positiva per questo paese, soprattutto per il resto. Per il resto, cioè cosa? Per la stima che sembra non avere più nel resto d'Europa. Va bene, editorialista della Zanzara, il signor Angelo da Vega? Da Vega 37. Vega 37, da Milano. Okay. Parenzo, torna un po' qua. Le passo il suo... Sì, Parenzo, il mio socio, sì. Parenzo, ok. Sì, Parenzo, ecco. Grazie. Ecco, pronto. Senti La Russa che... Beh, già questa è una notizia però, Ma Vega 37 commenta la finanziaria, già questa è una notizia. Non c'è nessun commento, dice che è preoccupato, no? per l'andamento delle borse. Ha fatto punto. Un commento sapidissimo. Vabbè, andiamo a sentire La Russa ieri sera a Controcampo. Agnelli, che mi sembra veramente bugiardo nelle parole che ha detto oggi, perché è di tutta evidenza che ha l'ossessione dell'Inter, lo si legge negli occhi. Ha passato tutta l'estate a parlare dell'Inter e credo che oggi abbia un pochino perso l'occasione di festeggiare invece una bella partita che ha fatto la Juventus, di festeggiare il nuovo stadio. Probabilmente, non avendo una grande personalità, lui, dico come persona, pensa che attaccando l'Inter così diventa un presidente che in qualche modo può essere più amato dai tifosi. Va bene, questo è La Russa a una certa ieri notte e oggi polemiche da parte di parlamentari juventini, anche dello stesso schieramento nei confronti di La Russa. Hai un commento da fare, Parenzo, su questo? Ma commento veramente la situazione drammatica e seria, quindi bisogna essere serissimi, che in una, che in un momento come questo i nostri ministri, i nostri politici perdano tempo con una cosa importante quanto il calcio, per carità. Però voglio dire, su via, occupiamoci, c'è un est modus in rebus, ma tu ce la vedi la signora Merkel o il signor Sarkozy commentare la partita del calcio del Bayern Monaco, ad esempio? Ce la vedi tu la signora Merkel allo stadio che commenta la partita del Bayern Monaco? Ma c'è delle regole nella vita, est modus in rebus. Adesso non so, il mio editorialista qui dice Vega 34, ad esempio, no? Vega 37, che cosa dice Vega 37? Sei d'accordo con me o no? Sicuramente. Ecco, commento fortissimo. Andiamo subito alle agenzie, sicuramente, ha detto. Mino dalla provincia di Rimini, 800 24 00 24, la zanzara. Che Mino. Tua. Pronto? Sì, signor Mino, dica. Ah, no, signore, no, io sono un proletario. Ma che vuol dire? Scusi, no, adesso scusami, non ce l'ho con Parenzo, ma magari ce l'ho con La Russa, con Berlusconi, con Gasparri, sì, ma con questi sicuri, no? Queste che figure pensano di fare, ma non si ascoltano quando parlano. Se si guardano allo specchio, però. Perché sono un proletario, sono uno che lavora, non cazzeggia. Anch'io lavoro. Ma anch'io lavoro, così certo, un proletario. Ma scusa, perché ti senti chiamato in causa, non so? No, ma no, ma ora, signor Mino, no, sono un proletario. Ma come sono un proletario? No, ho capito, ma non continuare a chiamarmi signore, altrimenti vuol dire che c'hai voglia di cazzeggiare. Lo so, ma io ho sempre voglia di cazzeggiare, abbia pazienza, lo signor Mino. Non è un dramma cazzeggiare, cioè non è un crimine. Assolutamente non mi pare, no, un crimine, no? Assolutamente. Cioè, lei vorrebbe una trasmissione per 2 ore e mezzo in cui uno fa tutte domande seriose. Allora, chiediamo un attimo qual è la nuova proposta in materia di legge elettorale al signor Gasparri. Ah, sì, interessante. Cosa si potrebbe fare? Ho già firmato il referendum per togliere di mezzo il Porcellum. Sì, ma perché lei è un proletario e non un signore? Questo ci interessa, non il Porcellum e queste cose. Ma perché sono tendenzialmente un anarco-comunista e quindi sono un anarco-comunista, questo è interessante. Anarco-comunista. Che vuol dire anarco-comunista? Lei secondo me non sa nemmeno il significato della parola anarco-comunista, non lo sa secondo me. Ma dai, non rompere i coglioni. Questo è interessante. Come fai ad affermare una cosa così? Infatti, banale. ho detto secondo me, lei non sa nemmeno il significato. È già uno che si definisce anarco comunista nel 2011. Posso chiedere una cortesia? Senta, mi potrebbe dare del lei, così, tanto per so che lei è un proletario, dunque ama dare del tu come tutti i proletari, però così usiamo questa forma di ipocrisia. Mi dia del lei e io le do del lei, va bene? No, casomai del voi. O del voi, va benissimo, anch'io le posso dire del voi. A tutti e due voi altri, anche a te e Parenzo, do del voi. Benissimo. Perché non sono abituato a dare del lei. Vabbè, ho capito, qui siamo in Italia. Ma semplicemente non per una questione di rispetto, perché se sto parlando così e intervengo alla radio, vuol dire che ho rispetto e lo faccio. Non ho altrettanto rispetto per Berlusconi, Gasparri e quell'altro, come si chiama, quello della difesa, che me lo dimentico sempre. La russa. La russa, con un nome così, a me piacciono le rosse, non tanto la russa. Comunque volevo dire solo questa è pessima. Io adesso sto sul lungomare di Misano e sto pregando Misano Adriatico, perfetto, sì. Sto in mezzo alle gnocche, sto pregando per Berlusconi. Nuovo editorialista della Zanzara, Mino da Misano Adriatico. Anarco comunista, è sul lungomare di Misano Adriatico e sta guardando le gnocche pregando per Berlusconi. Sto toccando proprio. No, vabbè, Mino, adesso cosa sta toccando? Se ci vuole far credere che sta lì in mezzo a chissà quante donne, non dica stupidaggini. No, quante? Tre. Tre. Me ne passi una. Va bene, senz'altro. Me ne passi una. Al telefono, però, non domani. Al telefono. Adesso, no, me ne passi una. No, me la passi, capito. Me ne passi adesso, una. Adesso hanno sentito il telefono, sono scappati. Sì, va bene. Anarco comuni. Su, fammi piacere, dai. Va bene, comunque questa trasmissione l'ascolto sempre, anche di notte. Senta, Mino, ma voglio capire una cosa. La preghiera perché sta pregando per Berlusconi? Ma perché, poveretto, ce n'ha bisogno. Ormai è talmente rincoglionito, non ci pesca più per niente. Vabbè. E quindi credo che l'unica cosa per chi ci crede è una preghiera. Bene. Anarco comunista. Gliela passi. Buona serata. Un abbraccio, caro Mino. Arrivederci. A voi. Fabio da Reggio Emilia, buonasera. Eccoci, dica pure. Buonasera. No, per rimanere un po' nello sport, argomenti effimeri che parlava Parenzio, no? Parenzo, effimeri, Parenzo, bisogna Parenzo. Vedere. Che è che ci sono cose più serie di cui ci si devono occupare, no? La Russia, quello lì non mi interessa la polemica Inter-Juve. Mi interessa però che esponenti della CGIL sono andati a contestare il giro della Padania. Sì, ma è roba vecchia ormai, a parte che no, non è roba vecchia, della Lega, facciamo un collegamento, no? No, della CGIL, scusi, di Rifondazione Comunista, sì, anche della CGIL. Anche della CGIL, anche i problemi. Vabbè, ma abbiamo altri, già no? Dato la settimana scorsa, il giro della Padania è finito, che però, c'è da commentare ancora? No, c'è da commentare, Parenzo dice che bisognerebbe occuparsi di cose più serie, i sindacalisti si occupino degli stipendi più bassi che ci sono in Europa. Infatti ho detto che è una fesseria andare a contestare il giro della Padania. Bene, bene Parenzo, bene. Allora, è più tranquillo, è più sereno adesso? Sono tranquillissimo. No, no, bene. Fabio, però non è che le persone... Lei inquadra le persone, credo di interpretare così il suo intervento in questo modo. Lei, siccome inquadra Parenzo non so in quale casella, pensa che naturalmente comunista. Non può dire, non può, comunista, vabbè, sì, ti ha inquadrato come comunista, non può dire che contestare il giro della Padania è una stupidaggine, perché lei l'ha già messo in una casella, l'ha già inquadrato come essere comunista, va bene, non pensante. A Misano là con l'anarco, così fanno due con tre, va meglio, no? Va bene, grazie. Arrivederci. Remo, provincia di Monza. Buonasera, signor Remo. Salve, Cosciani. Come andiamo, signor Remo? Ci dica qualcosa. Ci dica qualcosa di importante, di serio, di compiuto, di interessante. Perché, se tu premetto che io sono un imprenditore leghista, signore a lei, sono contento che lei è un signore, e vorrei che anche i proletari fossero signori, però sarebbe che si impegnassero forse anche per esserlo, no? Vabbè. Non pure quelli che sono i signori a proletari. Questa è una premessa così che mi viene suggerita, diciamo, dagli interventi precedenti. Vabbè. No, poi? Volevo dire che c'è un qualcosa di trasversale che unisce probabilmente tutti i partiti e anche un pochettino che il mio, questo purtroppo. Sì, qual è il suo? La Lega, sì, me l'ha detto. Sì, ho detto la Lega. Sì, allora? E che me lo ritrovo anche in un articolo di fondo di Ferruccio De Bortoli di ieri del Corriere, dove tanto si parla, diciamo così, dalla nostra situazione italiana, si dice, si cerca di dare un'opinione, si cerca di dare una valutazione, però non si dice, e purtroppo non lo sento nemmeno dire da voi, quelle che sono un pochettino le cause di questa situazione, che hanno incontrarsi sicuramente. Cosa dovremmo dire? Mi dica subito, ma lo dica lei che cosa dovremmo dire qui alla Zanzara, così risolviamo la questione. Dani, mi permetta, sino a quando noi vivremo in una situazione, in una nazione dove il 75% del reddito viene fatto da tre regioni, noi non ci sarà pareggio di bilancio che potrà portare questa situazione. Dobbiamo parlare di come portare e poter far crescere il reddito. Va di questo paese. Questo è, secondo me, il messaggio che va bene. Remo, fare crescere il sud rispetto al nord non mi pare una cosa così, mi pare piuttosto generale, che bisogna vedere come far crescere questo sud, non che bisogna che il sud cresca come il nord. Questo mi sembra la paliziano, o sbaglio, Parenzo? Non c'è dubbio. Era un attimo qui a discutere col signor tassista per capire la strada da fare. Ci sono dei problemi nel navigatore, mi rendo conto che nel paese sono altri, ma io in questo momento ho dei problemi col navigatore. Vabbè, cose che ti capitano quotidianamente, come dire, quotidie. Allora, collegamento con Strasburgo, con la nostra amata Strasburgo, dove domani ci sarà Berlusconi. Peccato che non siamo andati, però andiamo tra due settimane, peccato che non siamo andati, perché certamente il momento era favorevole, non c'è dubbio, era caldo. Domani Berlusconi andrà al Parlamento Europeo per parlare per pochi minuti però col presidente Buzek del Parlamento Europeo, che qualche minuto fa ha detto beh sì, incontrerò Berlusconi per pochi minuti. Non è un incontro ufficiale. Poi Berlusconi parlerà con altri, credo anche con Barroso, non lo so. Cosa si sta preparando? Qual è l'atmosfera, Parenzo, al Parlamento Europeo? Quale accoglienza troverà Berlusconi? Vedrai. Chi c'è in collegamento? L'onorevole Sony Alfano dell'Italia dei Valori. Buonasera. Buonasera, buonasera. Come sta? A tutti voi. Come sta? Io abbastanza bene. Che sta succede? Sta preparando le vuvuzela? Ti ricordi le vuvuzela? Quelle che le vuvuzela in Sudafrica. Sì, una cosa. Cosa state preparando lì, signora Fabio? Qual è l'agguato? No, noi nessun agguato. Stiamo lavorando serenamente. Avremmo preferito che domani, insomma, il presidente Berlusconi si presentasse a Napoli all'interrogatorio piuttosto che cercare l'ennesimo escamotage per non sottoporsi ad un interrogatorio. Insomma, questo ormai è. Vabbè, questo fa, scusi un attimo, signora Fano, però questi sono affari di Berlusconi. Che gli frega a lei se Berlusconi va a parlare con Buzek oppure con Barroso, eccetera. Va a farsi... No, il fatto è che quando c'è una persona che comunque o compie un reato, comunque è testimone, ma qui è parte lesa. Persona informata sui fatti, alta, aspettiamo, è sì. Persona informata sui fatti. Se non si presenta, ostacola alla giustizia. Il processo breve lo voleva lui, ricordiamogli, se poi lui usa questo escamotage, altro che processo breve, sai quanto durano i processi? Peraltro, proprio poco fa in aula, Buzek, su nostra domanda, ha, credo, insomma, rischiato di creare un incidente diplomatico, perché davanti alle nostre domande, incalzavamo, volevamo sapere se era stato richiesto un incontro ufficiale. Ha detto che lo riceverà per due minuti, no? Ha detto che no, Buzek ha detto... comunico a questo Parlamento ufficialmente che non mi è arrivata nessuna richiesta di incontro ufficiale. Domani incontrerò il Presidente della Repubblica Polacca e incontrerò così in maniera cordiale, amichevole, per qualche minuto. Poi Berlusconi incontrerà Barroso, adesso non ricordo. Ma io scusa un attimo. Però non stiamo a queste cose formali. Berlusconi domani, si è... Ma voi lo sapete che questo è il protocollo del Parlamento? Sì, però signora Fano, diciamo la verità. Le regole, abbiamo un protocollo. Ma io sono d'accordo con lei, guardi, sulla premessa sono d'accordo con lei. A tutti è evidente che Berlusconi non vuole andare a testimoniare a Napoli, presenterà un memoriale, non vuole incontrare, lo ha detto anche lui, non voglio incontrare questi giudici, e domani, che ma era deve giorno... decidere lui quali giudici deve incontrare. Ma questa è una strategia difensiva, ma è un escamotage semplicissimo. Il fatto che lui sia una persona benestante, ricca, gli fa credere che può decidere chi deve respirare, come, quando e con chi deve avere. Scusi, signor Alfano, lui non può decidere, ma ognuno decide come difendersi nella vita. Suo figlio Pier Silvio, invece di fare l'amministratore nelle sue aziende, gli faceva fare il giudice e si faceva interrogare da suo figlio. Ma che discorsi stiamo facendo? Ma questo che c'è tra... ci sarebbe una soluzione semplicissima. Come anche noi ci crediamo? Come, che ma neanche voi lo capisco che voi dovete fare così, però neanche voi ci credete a questa cosa. Ma chi ci crede? Ma nessuno ci crede, guardi, signor Alfano, ma nessuno sta... Alfano, c'è una soluzione semplice. Berlusconi ormai è un uomo finito, un uomo caduto. Stanno cercando di rimpiazzarlo, stanno studiando l'exit strategy, ma ormai è un uomo veramente vittima di se stesso. Ma io fossi nei magistrati di Napoli, questo lei dovrebbe dire, signor Alfano. Cioè, io fossi il signor Lepore, ad esempio, io andrei a Strasburgo domani, prenderei l'aereo subito e ritroggerei a Strasburgo. Ma non si può fare così, ma che buffonata che sta inventando? Meraviglioso, Lepore a Strasburgo. Bellissimo. Credo che il dottor Lepore abbia rispetto intanto per il suo ruolo e poi per il ruolo di questo Parlamento. Scusi, signor Alfano, però mi faccia capire una cosa. Berlusconi. Mi faccia capire una cosa. Dunque, Berlusconi arriva domani a Strasburgo, giusto? Prima va a Bruxelles e poi a Strasburgo, vabbè, quello che è. A un certo punto arriva al Parlamento europeo, ci sono tutti i parlamentari, eccetera. Voi cosa lui, il punto è questo. Quando io poco fa vi ho detto, mi dovete ascoltare bene. Sì. Quando io poco fa ho detto che lui sta violando il protocollo europeo, mi riferivo proprio a questo. Lui non verrà in plenaria. Lui incontrerà informalmente, amichevolmente, vabbè, quello che quattro mura queste persone. Invece il protocollo prevede che un capo di Stato si presenti direttamente davanti alla plenaria. Siccome ha paura di essere contestato persino dalle deputate del PPE per quello che lui avrebbe detto sulla Merkel, ha capito che non tira aria buona manco qua. Scusi un attimo, lei ci crede? Lei ci crede a questa storia? Ah, lei dice Berlusconi sa che non tira aria per una sua presenza, perché cosa potrebbe succedere secondo lei? Che probabilmente le stesse deputate del PPE, le stesse donne del PPE lo contesterebbero. Noi sappiamo che sono pronte per contestarlo. Donne del PPE non italiane, immagino. Non no, quelle... PPE, se non avrei detto PDL. No, PDL a parte... Le straniere. Ah, le straniere. Infatti ho detto le deputate tedesche. Cioè le deputate tedesche sono pronte a contestare Berlusconi. Ma lei crede davvero che Berlusconi abbia detto quella frase? Perché non ci sono Lei non ci crede? Ma lei non ci crede o no? Qual era quella frase esattamente, signor Alfano? Qual era la sua Merkel? Lasciamo stare perché certe cose... No, mi dica qual è quella frase, ma lo dica lei, perché non me la ricordo più, l'ha riportata Il Fatto qualche giorno fa. Guarda, Guardi, io non tengo, non ci tengo minimamente al titolo di onorevole, ma al titolo di signora sì, quindi queste cose gliele lascio dire a lui. Ma ho capito, però è giusto una questione di cronaca. Ah, fatto, la cronaca la dovete fare voi. Voi com'era, Parenzo, dimmela tu. No, ma pare, adesso il fatto scrive che, pare, ma io non ci credo, che il presidente Berlusconi in una conversazione privata e anche legittima, qui mi tocca dirlo, perché qui uno può fare commenti, no? Quante volte è capitato anche a noi di fare dei commenti al telefono dandoci di gomito con un'amichetta magari, o con, dice, ma quella lì, beh, quella che gli farei a quella, quante volte l'abbiamo detto? Sì. Forse tante. In quel caso il signor Berlusconi pare abbia, ma io non ci credo. Un detto, aperte virgolette, riferito alla signora Merkel, pare, culona in chiamabile. Ora il problema è, ci dobbiamo offendere per il termine. Avete qual è il problema? Ve lo dico io il problema, visto che voi ancora in Italia non avete tardato a ravvitarlo. Com'è la definizione? Signor allora, Berlusconi, signora Alfano, com'era sta definizione? Gliel'ha appena detto Parenzo. E quando il signor Berlusconi fa questo tipo di affermazioni al telefono, pare. Non è che le fa come ma non è detto, Berlusconi. Ma non è detto che le abbia fatte. Fatemi parlare. Beh, ho capito, allora, ma lei dà per scontato che l'abbiano fatte. Affermazioni, quando, se lui ha fatto, allora poniamo, se lui ha fatto, e io credo che le abbia fatte, questo tipo di affermazioni, non le ha fatte come Berlusconi, piduista, corruttore, frequentatore di minorenni, eccetera, le ha fatte purtroppo per l'ennesima volta, nei momenti in cui lui ricopre una delle più alte cariche dello Stato italiano, e parlava della Merkel, che non era la signorina che lavora dal salumiere sotto casa sua ad Arcore, ma è la Merkel, è una delle più alte cariche del ho capito ma voglio del dire governo, ma del sono governo, ma dove è reato qui però conto che ha messo in crisi i rapporti e non si fa proprio, è una questione di educazione. Ho io capito, ma non è sicuro che l'abbia detto, ma noi non ci stiamo Berlusconizzando, non le sta dicendo, ma non è sicuro che abbia pronunciato quelle parole. Non si fa. No, ma poi scusa, anche se l'avesse in questa maniera, quando si rappresentano le istituzioni, ci sono oneri e onori. Ok, ma sono voci, signora Fano. Essere educati, credo che sia la cosa principale e fondamentale, perché bisogna pensare che non si rappresenta se stessi, si rappresentano 56 milioni di italiani. Senta, mi sorprende che il presidente Napolitano per l'ennesima volta taccia. Ma perché che deve fare Napolitano? Che dovrebbe fare Napolitano? Scusi. Richiamare, allora, siccome Napolitano ha richiamato l'altra volta l'unità sulla manovra, eccetera, perché ha capito di avere a che fare con dei bambini discoli a scuola, allora evidentemente deve anche capire che qualcuno di questi bambini è poco educato e che va richiamato all'educazione. Cioè, dovrebbe, scusi un attimo, Napolitano dovrebbe richiamare Berlusconi perché forse ha detto al telefono in una conversazione privata che è una cosa assurda, lei si rende conto? Forse, come tutte le comunicazioni che forse ha detto, se la ricorda quando ha detto che i magistrati sono mentalmente deviati, antropologicamente no, diversi, quello l'aveva anche detto. Quello era un forte. No, ma quello l'ha detto sul serio. Questo uomo è da tenere chiuso in una stanza perché fa del male a se stesso e purtroppo come chiuso in una stanza? Ma come chiuso in una stanza? Di Silvio Berlusconi è se stesso. Ho capito, ma se chiusi in una stanza per lei che vuol dire chiusi in una stanza? Una galera? Una galera magari? In galera ci dovrà andare nel momento in cui si sottoporrà ma a lei, tutti i processi. Ma lei gode l'idea? Lei un po' ci gode l'idea che prima o poi Berlusconi andrà in galera? Guardi, sì, non vado un po' via sì. Con una persona sì, lei ci gode, lei ci gode. Pretendo che la legge venga. No, lei non vede l'ora, lei non vede l'ora, diciamo la verità. Lei non vede l'ora. No, guardi, ho altre priorità. Allora, pubblicità, torniamo subito. Pubblicità, torniamo subito. Eccoci qui, 800 24 00 24. Però, cara signora Alfano, come dire, Berlusconi rivendica apertamente quello che fa poi nella sua vita privata. Per esempio, alla festa dei giovani del PDL ha detto: io sono anni che ho fatto un fioretto, non ho mai più fumato, giocato, ma ho solamente... Io per altri due fioretti, uno credo a 26-27 anni, non ho mai più fumato e mi ha fatto bene. Tre, non ho mai più giocato, nemmeno al totocalcio. Quindi almeno queste tre cose ce le ho. Qualche altra cosa che non considero un vizio mi è rimasta e spero che mi rimanga negli anni. E poi ancora, non ho mai offeso, forse si riferiva proprio alla questione Merkel, solo ironie sono da imitare come politico. Non c'è una sola... Qualche volta ho forse esagerato in ironie, ma soltanto ironie, mai offese brutali come quelle che vengono rivolte a me. Quindi credo di essere stato un esempio da imitare, spero, per quanto riguarda il rapporto con gli altri politici con cui dobbiamo incrociare la spada. Va bene, va bene. Parenzo, dove sei? Siamo in mezzo al traffico, siamo in dirittura di arrivo, ma sempre in mezzo al... Questa trasmissione qui è molto bella anche da ascoltare in radio, quando tu sei in radio, scusa, quando sei in macchina, sì. È piacevole. Sì. E parlavo anche col tassista che diceva che effettivamente è una trasmissione che si fa ascoltare. Signor Alfano, sì, ci mi credete dico. Veramente quando lui dice di non avere, che lui è un esempio da seguire? Che ne ma, so, boh, io sono, io ma, sono... Quello, ma si è scordato quello che ha detto alla Bindi, ma quello che dice ai magistrati è ironia. Questo è un uomo che veramente ha problemi con se stesso. Io sono disposta a ricredermi. Ma adesso non è che siamo psicologi, non è che facciamo... Attenzione. Ascoltatemi bene, sì, io sono disposta a ricredermi su quello che io penso di Berlusconi. Sì. Se lui, visto che lui ha detto che nella vicenda di Tarantini e consorte, lui si è limitato ad aiutare una povera famiglia, sì, come la stessa cosa che ha fatto col principe dell'Utri, no? Quando De Luca ha detto, dice, ma mi ha pestato qualche miliardo, qualche milione di euro, perché io prima ero un principe, ora sono in miseria. Lui ha evidentemente l'attitudine a fare beneficenza a questi a prestare soldi alle persone, alle stelle, alle stalle. Allora, se lui sì, aiuta tutti, dico tutti, tutti, senza escluderne uno, no, non è che dice tutti, tutti quelli che ho capito, non è che uno deve aiutare tutti, abbia pazienza. Che si chiama tre carte e un punto. Allora, ma scusi, che c'entra? Aiuterà i suoi amici, no? Se lui no, fai l'errore, perché ha detto che Tarantini non era un suo amico. Ma gli amici, conoscenti, le persone che non vuole aiutare. Come faccio, il che fa un papone. Il presidente del consiglio a conoscere un pappone. Allora ascolti la mia, se lui aiuta sì, tutte quelle famiglie sì, che si presenteranno fuori da Montecitorio sì, a chiedergli un aiuto economico, tutte indistintamente, famiglie di operai, famiglie di aziende che hanno sì, chiuso grazie alle manovre di questo governo, famiglie di precari, di professori che sono in mezzo alla strada grazie alle manovre della signorina, anzi ormai signora Stellina Gelmini. Allora, se lui li aiuta tutti dall'uno al primo, io mi ricredo. Ma deve vabbè, aiutare tutti gli italiani. Lei sta facendo economica. Lei andrebbe a fare un hanno appello. Conoscenze che non hanno tra donne tra le loro conoscenze donne di un certo tipo. Comunque la una cosa geniale l'ho letta, una cosa geniale l'ho letta adesso su Dagospia, una delle lettere che arrivano a Dagospia, magari non è vera, è inventata, ma comunque era prevedibile che si sarebbe rovinato per un culo, ma nessuno poteva immaginare che fosse quello della Merkel. Questa è stupenda. Beh, questa è buona. Questa è buona, questa è buona. Io voglio capire una cosa. Però su questo va in un momento significante, io mi ricordo che tutto questo sì, ha come scusa, come scamotage, ed è stato detto anche oggi in aula al Parlamento europeo, sì, la manovra economica dell'Italia. Okay. A me dispiace che il popolo italiano sì, non sappia, perché evidentemente non lo sa, è benissimo, non è molto, non sa, non che sappia cosa è commissariata, tra virgolette, già da un anno. Sì, però signor Alfano, adesso non parliamo del commissariamento dell'Italia. Domani che succede? Che fa? Cosa le dico sempre? Preferisco che Berlusconi vada davanti ai magistrati per sì, farsi processare, perché indagato e ritenuto come mandante esterno delle stragi del 92. Oddio, non ne posso più sentire questo. Essere processato per le vabbè, prostitute. Senta, non me ne frega nulla. Però voglio sapere la verità sul suo ruolo sulle stragi del 92. Vabbè, del 92. Quello però scusi Alfano, ammettiamo solo una cosa. Ammettiamo pure che Berlusconi, e io non ci credo, abbia detto quella cosa sulla signora Merkel. Si fermi qui, grazie, perfetto, inchiodi, grazie. Ammettiamo pure che abbia detto quella cosa sulla signora Merkel, ammettiamolo. Ma quante battute si sono fatte, ad esempio, sulla gobba di Andreotti? Ma lei ma anche su altre cose, anche su altre cose, allora, ma al telefono lei come parla? Parla ogni tanto in maniera così? Guardi, ringraziando Dio, mio padre e mia madre mi hanno educato e non uso questo termine. Vabbè, ma che c'entra? Al telefono uno può parlare anche di però, cose. Non è nel mio costume, quindi non posso capirlo. Non lo può capire. Mi dispiace, soprattutto quando si parla di determinati personaggi. Che però forse è il caso di dire a lui il fondo schiena l'hanno fino adesso salvato, proprio la signora Merkel a lui il fondo schiena l'ha salvato spesso, perché se fosse questo stata interessante, cioè, una persona, se fosse stata una persona meno corretta, sì, vi ricordate tutte le figure che ci ha fatto fare quando la Merkel lo aspettava per la fotografia e lui dialogava sì, al telefono probabilmente con qualcuna delle sue escort, vi ricordate quando la regina d'Inghilterra lo ha chiamato e dice, ma chi è questo che urla? Dai, per questa ironia, questa ma è la vergogna del paese, lei dice, la vergogna di questo paese, lei dice la Merkel è la Merkel che ha salvato il fondo schiena di Berlusconi più volte. Ma fino adesso sì, perché è stata una persona estremamente questa corretta. Buona, questa è buona. Senta, signor Alfano, posso chiedere una cosa? Ma domani che cosa prepara lei al Parlamento Europeo? Mi dica che cosa è in preparazione, una protesta? Sì, domani lavoro. Ho capito, quando viene Berlusconi che succede? Fate degli agguati, siete lì dietro l'angolo ad aspettare che passi? Quali agguati? Guardi, a me piace parlare chiaro, papele, vis-à-vis. Se viene in aula, mi alzerò, chiederò la parola, dirò che lui qua sta usando il Parlamento europeo così come fa col Parlamento italiano, cioè per sfuggire agli interrogatori e ai processi, ma che questo Parlamento non si presterà assolutamente a questo giochino e che deve essere interrogato e processato. Vabbè. La deve smettere di tenere un po' italiano, non ci faccio. Abbiamo bisogno di persone che ci rispettino e che siano persone per bene. Vabbè, questo è va benissimo, per carità, però voglio dire Che figura facciamo? Lo fischiamo anche in Europa, c'è un momento come questo. No, guardi, forse io vi consiglio di leggere, ma lei lo fa a Parenzo perché lo so. Perché io che faccio? E anche lei, Cruciani, quella leggete la stampa estera, e quindi sapete molto meglio di me che la stampa estera dice tutto quello che la stampa italiana non dice su Berlusconi. Ma comunque, signor Alfano, io voglio capire una cosa. Domani, quale gesto dovrebbe eclatante c'è in programma, perché lanciare dei coriandoli, detto nessun gesto eclatante. Se lui si presenterà in aula io chiederò la parola lei dirà quello che dice sempre su Berlusconi eccetera, che è una vergogna che viene al Parlamento europeo. Lui delinque, non è mica colpa mia, lui delinque, io devo fare in modo che lui non delinqua. Vabbè, per quello, e che ci ravveda soprattutto, che si ravveda e che si faccia processare. Va bene, senta, perché la smetta di dire ai magistrati che sono antropologicamente deviati. Vabbè, senta, però voglio dire una cosa, siccome Berlusconi probabilmente poi non verrà al Parlamento, no? Nell'emiciclo, non verrà, ma c'è avete in mente qualche dimostrazione, qualche cosa? Lo seguite? State lì a vedere che percorso fa? Siete dietro l'angolo ad aspettarlo? Lei scorda che qua siamo all'interno di un Parlamento che gode ancora di credibilità e che ha una reputazione per fortuna ancora credibile. Vabbè, grazie. Mi auguro io che lui venga. Non stiamo parlando, guardi, non è che stiamo parlando di oggi, per esempio, a Palermo hanno arrestato Uscintilluni, un boss. Ma lei, a proposito, lei si candida a sindaco o no a Palermo? Perché questa domanda? Perché? Non è che l'abbiamo chiesto. Finalmente Palermo potrebbe avere. Non è che io l'ho chiesto, non è che un'opportunità così come ce la sta avendo Napoli con De Magistris. Ah, dunque lei si candida, insomma, si candida a sindaco di Palermo? No, non lo so. Non lo come so. Non per lo ora sa? Sono qua, sto ci sto pensando. Sono qui al Parlamento Europeo e ho veramente tanto lavoro. Voglio fare lavoro come De Magistris. Voglio fare come De Magistris, mi candido a Palermo. Tanto alla fine finisce così. Alla fine finisce. Diciamo che almeno ci sta pensando, questo è sicuro, no? No. Mi ha fatto piacere, mi fa piacere che ci siano tanti palermitani e non solo che mi chiedono di. Vabbè, signor Alfano, vogliamo fare una scommessa. Oggi è il 12 settembre. 12 settembre. Benissimo, quando è che si entra nel vivo di queste di candidature, eccetera? Siamo a marzo, aprile. Guardi, già se ne parla, benissimo, però quando è che si vota? A maggio? La campagna elettorale inizierà nel vivo a gennaio, febbraio. Benissimo, facciamo qui la scommessa, Parenzo. Signor Alfano sarà candidato a sindaco di Palermo. Io scommetto 100 euro, Io pure 100 euro. 100 euro. Lei scommette qualcosa o no? Chiunque vince lo dà in beneficenza. Vabbè, però lei scommette contro, scommette che non si candida? In questo momento veramente ho tanto lavoro. Facciamo così, signora Fa, facciamo così. Chiunque vince dà in beneficenza al signor Trantini che ha tanto bisogno. No, chiunque vince lo dà a qualche famiglia cassa integrati, di persone che hanno perso lavoro, di tanti giovani che non riescono a trovare lavoro. Adesso non mi faccia, magari non sono bellissime. Stavo scherzando, non mi attacchi il pippone sulla disoccupazione. Di essere candidate da Berlusconi. Ma che c'entra adesso i candidati di Berlusconi? Adesso avete sempre Berlusconi pure con la disoccupazione. Pover uomo. Pubblicità, uomo, grazie. Pubblicità. Arrivederci. Siamo qui, caro Parenzo, ascoltatori, 20:13, dove sei? Sempre a Lombardia Channel? Sono appena arrivato in loco, Bene, allora, Francesco da Sondrio, buonasera signor Francesco. Buonasera Cruciani, buonasera. Dica. Ciao Franci. Non lo conosci? Beh, Franci, diminutivo, va bene. Allora, vabbè. Forse non gliel'ha riferito, ma comunque mi chiamano proprio Franz. In ogni caso... un primo suggerimento per i taxisti, visto che Parenzo li usa spesso. Liberalizziamo queste benedette licenze, così come abbiamo liberalizzate quelle del commercio. Certo, hanno ragione a lamentarsi dicendo che effettivamente chi compra una licenza, per esempio a Roma, spende oggi 350.000 euro. Per i commercianti, fino a qualche anno fa, la cessione dell'azienda costituiva quella che noi diciamo la liquidazione. Purtroppo così è stato così per i commercianti, non capisco perché non si riesca a fare con i taxisti, con i noleggiatori di rimesse, eccetera. Intervengo però per un'altra cosa. Ha esordito ironizzando sul fatto che tutti i giornali, i partiti, eccetera, dicono che il nostro presidente si debba mettere da parte. Non credo che sarebbe la soluzione di tutti i problemi. Cruciani ironizzava, è vero, non risolverebbe tutti i problemi, ma sarebbe un buon primo passo. Dopodiché si va avanti. Si potrebbe dar spazio al mio convalesano che detesto, Tremonti, strafottente com'è, ma che in questo momento ritengo possa essere l'unico poi che lo sostituisce. Dopodiché sui giudici ha ragione Berlusconi, sono effettivamente esagerati, ma l'ultimo che può promuovere un'azione contro i magistrati è proprio lui. Mi immagino se nel 94 Gianni Agnelli avesse voluto proporre il blocco della scala mobile, si è riuscito a farlo perché l'ha detto Craxi. L'avesse sollevato Gianni Agnelli sicuramente non si sarebbe mai. Non ho capito questo passaggio da Berlusconi. Uno che fa una proposta come quella dell'abolizione della scala mobile, sicuramente non può essere troppo interessato, in quel caso era Gianni Agnelli. Oggi Berlusconi è in una situazione in cui criticare o voler proporre una riforma della magistratura è quello meno indicato. Deve farlo qualcun altro. Va comunque fatto. Questo strapotere dei giudici è sicuramente una cosa intollerabile. Non sono assolutamente berlusconiano, né dalla prima, mai. Però in questo caso mi tocca riconoscere che qualche buona ragione ce l'ha. Nel privato faccia ciò che crede, i giornali se vogliono vendere facciano altro. I giornali per fortuna possono scrivere di quello che vogliono, non è che hanno dei limiti da questo punto di vista. Grazie Traffico, torniamo tra un attimo con Carmelo da Milano, Luigi da Grosseto, Gianni da Milano, Francesco da Bari. Eccoci qui, 20:17, 800 24 00 24. Oggi il signor Rotondi, l'amico nostro Rotondi, ministro dell'attuazione del programma, caro David. Amico, si dice sempre così, amico, adesso non andare a specificare. I democristiani si chiamavano amici, compagni, l'amico. Ha pronunciato queste parole: non è detto che dopo Berlusconi sarà democratico. Nella borghesia italiana c'è una pulsione reazionaria che la DC prima e Berlusconi dopo hanno trattenuto nella democrazia. Ma l'hai capita questa cosa tu? No, ripeti, possiamo ripetere un attimo che mi pare molto profonda. Non è detto che il dopo Berlusconi sarà democratico. Nella borghesia italiana c'è una pulsione reazionaria che la DC prima e Berlusconi dopo hanno trattenuto nella democrazia. Basta osservare il successo della polemica sulla casta per capire quanto è forte nella pancia del paese l'attesa dell'uomo forte. Sarebbe l'ora della solidarietà tra le forze democratiche, ma dormono. Vabbè, certo, sì, durante il fascismo la borghesia ebbe un ruolo centrale. Sì, ma che c'entra, scusa? Questo dice, certo, questo. Ho capito, è ma che è la signora Giustina Mistrello Destro, del PDL. Come la deputata padovana. Sì, Giustina Destro, amica tua, cioè amica, no, insomma, conoscente. Amici miei amici sono. La signora Giustina Cruciani, Destro. Sono altri. La signora Giustina Destro che è quella che dà la testa. Scusa un secondo. Sì. Ma cos'è? Scusa, hai tirato la catena del bagno? Ho tirato l'acqua, sì. Ho capito, ma è una cosa pazzesca. Aspetta un attimo prima di parlare di persone, che sennò sembra che l'abbia fatto per lei. Capito? Vabbè, Francesco da Bari, buonasera signor Francesco. Aspetta un attimo. Sì, sì, sì, aspetta. Dica. Ah, io ho sentito il discorso fatto poc'anzi da Berlusconi, ho chiamato semplicemente perché Parenzo ha detto: ma come, Cruciani che difende Berlusconi? E mi sono scoppiato a ridere, perché in effetti sono più di un attimo solo, un attimo solo, signor Francesco. Non mi freghi, amico mio. Stavolta okay. Non mi freghi, amico mio. Non mi freghi stavolta, non mi freghi. Il telefono dell'onorevole Giustina Mistrello Destro, padovana, che fornisce la tessera di parlamentare al ministro dei beni culturali Galan per andarsi a fare la barba. Pronto? Niente. Pronto? Sì. Pronto? Pronto? Con chi parlo? Sì, con chi parlo? Sono Teresa da Catanissetta. Sì. T'hanno fregato ancora! No, no, non mi ha fregato nessuno. T'ha fregato, no, la signora no. Scanu t'ha fregato. No, no, no, no. Va bene, signor, abbiamo interrotto il signor Francesco da Bari, poi riproviamo con la signorina a destra. Francesco, ma perché scusi. Chiude la signora destra? No, dicevo che lei faccia sempre a favore o contro Berlusconi, è un suo plus della trasmissione, anzi riesce a tenere viva la polemica grazie a questo, fare il bastian contrario di chiunque chiami, che sia a favore o contro, questo l'ho scoperto da solo più di un anno fa, quando dopo essere stato convinto che lei fosse un berlusconiano assoluto, ci fu una telefonata di uno che si incazzò come una bestia con lei per dicendole che era assolutamente basta farla finita nel parlare male di Berlusconi. Allora scoppiai a ridere mentre l'ascoltavo, perché l'ascolto tutte le sere tornando in macchina da lavoro. E quindi praticamente anche stasera ho sentito il caro Parenzo dirle: ma come, difendi Berlusconi? E quindi ho sentito il bisogno di telefonare. Ma visto che ho reso nella linea, intendo dire solo due cosette. Innanzitutto che il premio era stancato. Cioè, una cosa nuova vuole dire lei. Tanto per cambiare, è una cosa sì abbastanza nuova, ma soprattutto siamo stanchi, credo, di essere presi in giro. Questo forse è una cosa comunque vecchia, si sa da tanto tempo, almeno molti la sentono fortemente, però in effetti è quello che io sento particolarmente, cioè di essere preso in giro costantemente. Come si può dire che ho fatto un fioretto smettendo di fumare? Cioè un fioretto, hai salvato la tua pelle forse. Ma come si può dire che non mi pare una cosa, scusi, tra tutte le cose che ha detto, questa non mi sembra la più grave, insomma, francamente. No, sì, voglio dire, sono d'accordo, ma l'ultima, una delle ultime è stata veramente grave, quando uno dice che per fare le riforme più importanti occorre che l'Europa gli dia il diktat di farle in modo che non scontenti lui l'elettorato, ma lo scontenti l'Europa, è veramente dire che ce l'abbiamo a fare questo premio, se deve essere, deve avere poi le imposizioni dall'alto. Vabbè, poi? Tanto vale rivolgersi direttamente. E poi per la Russia, che lei ha ascoltato in diretta ieri sera, visto che mi sono trovato anche per allora... caso in quella trasmissione, è ridicolo. È veramente ridicolo fare questi commenti. Ma è ridicolo parlare, lei dice ridicolo, la ministra della difesa parlare di calcio a luna di notte. Ma come si fa a dire? Vabbè, non è mica la prima volta. Non sa perché dice o afferma qualcosa che riguardi, io sono di parte, lo dico, sono juventino. Sì, sì, no, ma il problema è parlare di sì, tanta personalità. Vabbè, ma questo è il giudizio della Russa su... Tra l'altro mi dicono che oggi a chi lo intervistava su questa vicenda qui, lui diceva che era assonnato e che non... che era assonnato e poi ha, credo, in parte rettificato, ma non c'è niente da rettificare in quello che ha detto. Perché in effetti poi nessuno dei politici fa offese verso nessuno, vero? Come dice Berlusconi, per carità, chi offende? Nessuno. Va bene, grazie. Gianni da Milano, Parenzo, che stai facendo? Che sento rumore? No, sono che sto facendo? Niente, sto guardando dei documenti, dei dossier, delle cose. Dei dossier. Ma quali dossier? Dal 2006 al 2011 l'ex braccio destro di Tremonti, milanese, avrebbe preso come cifra complessiva dai vari monumenti che gli provenivano dai diversi incarichi a lui affidati 1.368.000 euro. Questo è un tema. Ma quale tema? E quanto si afferma in un prospetto inviato dalla Procura di Napoli alla Giunta per l'autorizzazione della Camera sul caso milanese? Perché sai che tra pochi giorni si decide dell'arresto o meno di Milanese. Questa con qualche settimana di ritardo rispetto a quando è stata presentata la questa richiesta. Va bene, Gianni da Milano, Gianni, fra poco inizia la nuova edizione di 8 e mezzo con Lilli Gruber, che dice che vuole scoprire la nuova classe dirigente del paese. Primo ospite questa sera Giuliana Amato. Sì. Perché ridi? No, perché appunto nella conferenza stampa però in questo momento sorrido perché unito il diciamo così, il desiderata dell'ottima Gruber, Lilli, dell'ottima Lilli, ottima, di una rete importante in grande crescita come la 7, e lo dico senza conflitto di interesse, appunto nessun conflitto di interesse, cioè il titolo delle agenzie di questi giorni erano queste: Lilli Gruber a 8 e mezzo, più spazio ai volti nuovi, ecco, questa era la cosa. Stasera c'è Giuliano Amato, sì. Però Giuliano Amato in questa fase è interessante da sentire il dottor Sottile. Sì, però cercheremo di dare il nostro contributo, dice, continuando ad avere ospiti che abbiano qualcosa da dire quando sarà possibile, dando spazio ai nuovi volti della politica. Si partirà con un ospite che è un volto nuovo della politica, Giuliano Amato. Benissimo. Da Giuliano Amato in vogliamo fase. Sentire il signor Gianni da Milano, però scusa, abbia pazienza. Quando uno dice daremo più spazio a volti nuovi e poi c'è Giuliano Amato come primo ospite, amico mio. Gianni da Milano, buonasera. Salve, carissimi. Mi avete beccato con un bicchiere di vino in mano. Ah, ma questo è buono. Non sentiremo la differenza rispetto al solito. Dica, prego. Il gutturnio di un contadino. Il gutturnio, il gutturnio. In via, magari se mi fate chiamare, vi dico anche dov'è questo contadino. Se ce lo dica così, ma... Ma il gutturnio è piacentino, no? È piacentino, certo. Vino piacentino, esatto. Io vado fino là, in una valle, da questo contadino... Dove vai esattamente nel piacentino? Sono curioso. Nel piacentino. Questo è interessante per Radio 24, no? È fondamentale a quest'ora. Appunto, dai. Vabbè, mi dica dove va nel piacentino, in quale località, signor Vado Giorno. A Carmiano. Carmiano. Si chiama Carmiano, poco dopo Ponte dell'Olio. Carmiano, benissimo, Carmiano. Bene, possiamo proseguire, Gianni? Okay. La mia curiosità è stata soddisfatta. Io ho telefonato alle 6:30 circa, quando avete aperto simpaticamente parlando che tutte le opposizioni chiedono le dimissioni di Berlusconi, no? Sì, vabbè, questo, insomma, dicendo che tutti quanti poi ripetono la stessa frase, Berlusconi se ne deve andare, eccetera. Ho sentito tutta la trasmissione. Poi ce n'è un'altra, scusi, dichiarazioni. Torno per rinnovare la classe dirigente, Gruber. Sì, bellissima questa. Tra l'altro, mi scusi, sì, proprio in tema, in tema con quello che avrei voluto dire, sì, un paio di cose. Uno, Amato, sì, no? Che mi ha fatto poco fa avevate parlato di tasse, contributi, di gente che si lamenta. Vuole parlare lei della pensione di Amato? No, sì. No, io voglio solo citarvi una cosa. Allora, io diciamo che preferisco un altro Alfano rispetto a quello che ho sentito per più di un quarto d'ora. Cioè, chi preferisce? Angelino? Beh, sicuramente non c'è paragone, voglio dire, siamo su due piani completamente diversi. Vabbè, allora? E non sono maschilista. Ma che c'entra maschilismo? No, appunto, dico, non lo dico perché sono maschilista, dico che preferisco un altro Alfano rispetto a quello che ho sentito poco fa. Volevo dire l'acqua che... nel vino, va che è meglio. Ecco, bravo. Tutti si lamentano, eccetera, eccetera. Ma voglio dire, Amato, no, mi ha beccato sul conto corrente mentre mi era appena arrivato il finanziamento che avevo chiesto per comprare casa. E mi ha beccato e ho pagato la tassa come se fossi Berlusconi. Vabbè, allora? Beh, voglio dire, l'ho presa con lo spirito che lo deve prendere un cittadino. Siamo in una democrazia, c'è qualcuno che ci governa, questo decide e noi non è che possiamo fare una rivoluzione ogni giorno, no? Giusto? Allora? Ecco, allora, sono più dell'idea che forse le dimissioni dovrebbero darle tutte le opposizioni. Vabbè, perché il contributo che danno per portare avanti questo paese è assolutamente zero. È zero, sembra di sentire Zelig tutte le sere. Sì, diciamo che Zelig ma siete molto più spiritosi, cioè molto più piacevole sentire voi che non sentire dichiarazioni di tutti i politici. Ma non li voglio mettere tutti insieme come una classe. Li metto insieme per le battute, controbattute, sembra di essere a Zelig. Bene, grazie Gianni, abbiamo la borsa, torniamo tra un attimo. Parenzo, altri 5 minuti poi ti lascio, 5 minuti. Ci sentiamo domani. 5 minuti e poi ti lascio, 5 minuti. Tu pure sai che non va la vita con me, ragazzo mio. Ci sono Davide, un secondo ancora, la signora destra. Che? Aspetta. Pungono me, sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Chi co co co cucuru curu curu curu cacca. Chi co co co cucuru curu curu curu cacca. Con tanti galli che cantano. Chi ma non risponde tanto la signora destro. Tu prosegui, E se i piccioni spariscono tutte le papere piangono. Tutti in coro, voi che siete in macchina. Chi Berlusconi, chi di noi non ha mai detto sistema di merda al telefono? Io non posso pensare dove lei non può arrivare mai. C'è una tigre dietro il cespuglio che... Chi di noi non ha detto una volta con gli altri che sistema di... È la realtà di adesso. Posso chiederti, al di là degli umani sfoghi, che cosa pensi dell'Italia? Che è il più bel paese del mondo. Che è meraviglioso per la sua natura, per le sue bellezze naturali e che ha i più grandi tesori artistici. Non scappo dai giudici, vado in Europa per spiegare la manovra. Io ti devo salutare. Sì, va. Vai, vai, vai pure, ti abbraccio. Ciao amico mio, a domani. Per la prima volta da 135 anni a questa parte, noi manderemo in pareggio i bilanci dello Stato. Pensi che l'unica volta dove i bilanci dello Stato sono stati presentati e raggiunti in pareggio è stato nel 1876 con il ministero di Marco Minghetti, quindi un record. Un po' di tempo fa, insomma. I record di Berlusconi, che poi dice, appunto per presentare questi numeri, non scappo dai giudici ma vado in Europa. Qualcuno l'accusa di scappare dai PM, che risponde? Che è un'assurdità, che si è posta come una necessità di confortare gli interlocutori europei. Ho cercato quindi di avere un appuntamento con il Presidente del Consiglio dei Capi di Stato e di Governo Van Rompuy, con il Presidente della Commissione Barroso, con il Presidente del Parlamento Buttek, e non è stato possibile averlo oggi di lunedì, è stato possibile averlo per domani martedì, e ho ritenuto che fosse urgente che io mi recassi a Bruxelles. Bene, dove andiamo? Roberto da Milano, poi Carmelo sempre da Milano, Luigi ci chiama da Grosseto, Fabrizio da Macerata, Roberto da Roma, 800 24 00 24. Siamo qui ancora fino alle 21 a sentire le vostre opinioni su quello che accade in questo paese. Roberto, dica. Buonasera Luciani, a lei, e se è ancora lì anche. No, Parenzo è andato via, oggi è lunedì e ogni vabbè, volta. Lei allora che farà la difesa d'ufficio di entrambi. Di chi? Un pochino stufato di sentire lei e Parenzo, ma, e tutti gli altri che lo fanno, che definiscono le frasi di Berlusconi raccontate al telefono come delle frasi raccontate in privato. Beh, su questo non c'è dubbio, che siano raccontate in privato non c'è minimo dubbio. No, accidente non c'è dubbio, nel senso che Berlusconi, è ormai è chiaro perché i PM sono accaniti contro di lui, o perché lui parla con delle persone poco raccomandabili, uno degli uomini più intercettati del mondo. Per cui tutto ciò che lui dice al telefono, ormai lo sanno anche i paracarri, finisce sui giornali. Sarà colpa sua, sarà colpa dei pubblici ministeri, non importa. Ciò che dice lui anche in privato è pubblico. Per cui o lui è un incontinente assoluto. Ma che significa quello che dice in privato e pubblico? Ma cosa vuol dire? Uno può contestare a Berlusconi il fatto di parlare con certi personaggi, ma non è che uno ogni conversazione che fa in privato si deve aspettare di ritrovarsi anche in pubblico. Se tu fai il Presidente del Consiglio, non parli al telefono con certe persone, d'accordo, ma questo qua è un vecchio discorso. Berlusconi, diciamo, si comporta come si comportava da... Se tu sei Presidente del Consiglio... Se tu fai Presidente del Consiglio, devi prevedere, devi necessariamente prevedere quali sono gli effetti delle cose che dici. Ma che c'entra? Dipende chi le dici e in che contesto lo dici, ma non è che tu... Tutto è intercettabile. Luciani, mi faccia finire, ok? Ora, visto che lui, per una ragione o per quell'altra, è costantemente intercettato, secondo me è per colpa sua, ma non importa, sarà perché i PM ce l'hanno con lui. Lui quando dovrebbe essere più prudente, dice. No, calma. Lui è libero di pensare e di dire quello che vuole. Ci sono cose che io a mio figlio di 4 anni insegno a non dire. Vabbè, culona inchiavabile. Ma questo... Non è obbligatorio dirlo. Uno se sì, lo può però, evitare. Roberto, Roberto, abbia pazienza. Allora, quella donna lì decide se comprare i nostri bot. La vuoi capire, Cruciani? Quella donna lì decide se i nostri bot, cioè se i miei quattrini, i suoi e quelli dei nostri figli, varranno qualcosa domani. Guardi che... E lui la definisce culona inchiavabile. Roberto, a parte che... Benissimo, Roberto, a parte che non è un incosciente o no? Non sa benissimo che lo sapranno tutti, primo. Come no? Dai, abbiamo saputo delle sue telefonate. Ma cosa c'entra, Roberto? Cui commentava la sua chiamata della sera prima. Ma cosa c'entra le telefonate della Dario? Sono le intercettazioni, le registrate fatte dalla Dario stesso. Ma pure i telefoni dei peruviani immigrati regolarmente. Ormai qualunque cosa c'entra di Berlusconi finisce sul giornale. È da incoscienti per un uomo del genere definire la donna, una delle persone al mondo da cui dipendono di più le nostre sorti economiche, una capito, lei a parte che Roberto non sappiamo se questa cosa è stata detta oppure no. Luciani, perché... dai, guardiamoci negli occhi. Ma che guardiamoci negli occhi di te? No. Ma che ne so, non lo secondo so, ci sono no. Guardi che in questo paese circolano delle cose che poi vengono anni dopo smentite in maniera totale. Mai, ma non lo so, ma adesso non faccio ironia. Se vogliamo buttare su ironia, siamo capaci tutti. Roberto Berlusconi è uno che ha chiamato una prostituta dopo averla pagata e il giorno dopo vantandosi della sua prestazione, se lo ricorda vero quando ha chiamato la Daddario? Che noia. Come che noia? È quello che succede. Sì, ho capito, ma che vuol dire? Roberto, allora, se lei vuole seguire questo ragionamento, io le posso anche venire dietro. Cioè, lei dice, siccome Berlusconi sa che le sue telefonate, per un motivo o per l'altro, le sue telefonate, diciamo, non sul suo telefono, ma le sue conversazioni possono essere intercettate, qualsiasi cosa dica, deve stare molto attento, soprattutto quando parla di un leader europeo o di un suo collega al governo in un altro paese importante come la Germania. Su questo ci posso anche stare. Dobbiamo sempre dare per scontato che questa cosa esista, che questa intercettazione sia esattamente come l'abbiamo letta qualche giorno fa sul Fatto. Diamo per scontato che sia così. Se lui ha davvero pronunciato questa frase, non c'è dubbio, però io le ripeto che se noi mettessimo sotto osservazione, sotto intercettazione, i telefoni di tutti i leader europei, ma lo sa quanto ne dicono degli altri leader europei? E allora, appunto. I loro telefoni non lo sono. Esiste un minimo di necessità di confrontarsi con la realtà. La Merkel può parlare al telefono perché, per ragioni, torti, non importa, i pubblici ministeri tedeschi non la intercettano. Per cui, se definisce Berlusconi un nano pelato rompicoglioni, non lo viene a sapere nessuno. Però lei se lo può fare. Lei se lo chiede il motivo, a parte lei penserà all'inclinazione naturale di Berlusconi alla delinquenza. Lei si chiede il motivo per cui le telefonate di Berlusconi sono costantemente intercettate? Lei avrà la sua interpretazione. Interpretazione? Ce l'ho, ma non ha importanza. I bot dei miei figli non dipendono da questo, dipendono da quello che fa Berlusconi. Vabbè. I bot dei suoi figli non dipendono dal fatto che il pubblico ministero di Parma ce l'abbia o meno col miliardario Ridens, chiaro? Dipendono da quello che il miliardario Ridens fa e dice. Vabbè, adesso però non utilizzi adesso queste escamotage, come dire, ironici, il miliardario Ridens, che sono stronzate, su. Benissimo. Una battuta. No, ma ho capito, Roberto, poi se la vogliamo impostare tutta sull'ironia noi abbiamo aperto anche con quella canzone sul nano. Un po' di ironia concediamo. Ma per carità, abbiamo aperto con quella canzone sul nano, figuriamoci un po'. Appunto, ma non è questa la cosa fondamentale. La cosa fondamentale è che quell'uomo lì, nel nostro interesse, deve imparare a contenersi. Va bene, ma questo qua è una domanda, è una questione che già si pone da 20 anni, e Berlusconi si comporta come 30 anni, 40 anni fa, cioè parla con tutti in maniera disinvolta al telefono. Ma questo non è una... è un male. Sì, ma Roberto, non è una questione dell'oggi, è una questione di quello che è Berlusconi, come ha detto mio nonno. Ha picchiato mia moglie tutta la vita e tua moglie tutta la vita, ha fatto una stronzata all'infinito. Se prima o poi smette è meglio, o no? Sì, cioè, sì. Non è che perché Roberto, nonna, è tutta la vita che ti picchia, prendile ancora. Io non so, no, ma questo, per carità, è il suo ragionamento fila. Va bene, lo accetto, insomma, non c'è dubbio, se uno smette di fare una cosa che è tendenzialmente sbagliata e non è, tra virgolette, istituzionale, è meglio per tutti. Caro Roberto, l'abbraccio forte, è stata una conversazione molto interessante, a presto, buona serata. Luigi da Grosseto. Eccomi. Eccoci, dica pure. Ecco qua, io devo dire che mi sono un po' stufato, diciamo, di sentire sempre tutta questa cretine, quest'odio incredibile nei confronti di Berlusconi. Volevo fare una semplicissima riflessione, no? Se parto dal 94, da quando lui è entrato in politica, e vedo quali governi si sono succeduti, dico il 45% l'ha presa la sinistra e il 55% la destra. La situazione italiana non è affatto migliorata, la situazione con i bot, la ripresa che non c'è mai stata, l'economia che non parte, quindi smettiamola di avercela con Berlusconi che parla e che c'ha il vizietto da quando è nato, come lei giustamente ha detto, no? Quale vizietto, scusi? È il vizietto di parlare al telefono, il vizietto che gli piacciono le donne, insomma. Da quando è nato mi sembra esagerato, io non ho detto questo, ho detto che Berlusconi si comporta come si è sempre comportato. Esatto. Cioè come uno che al telefono parla con un sacco di gente, lo ha fatto prima di diventare Presidente del Consiglio e lo fa anche adesso. La ringrazio, abbiamo il traffico, caro Luigi, 800 24 00 24. Siamo qui, 800 24 00 24, parte finale della Zanzara di questa sera, con Giuliano Amato, che discetta di politica italiana, per carità, insomma, si può fare tutto, alla 7, a 8 e mezzo. Ripeto, ma è abbastanza curioso, mi ha incuriosito questa cosa, io non ho nulla contro la signora Gruber, per carità, la considero una grandissima della televisione, mi ha incuriosito il fatto che la stessa signora Gruber, in un'intervista presentando la nuova edizione di 8 e mezzo, abbia presentato la stessa edizione di 8 e mezzo come una sorta di fucina di nuove leve della politica, insomma, cercheremo di rinnovare la classe dirigente. Ecco il primo ospite. Parecchi problemi, e come li ha oggi può averli domani. Ecco, ma Berlusconi secondo lei dovrebbe fare un passo indietro, cosa che peraltro chiedono ormai anche alcuni esponenti dello stesso centrodestra? Ma io do risposte canoniche in questa materia. Provi a dare una risposta non canonica. Ma, la migliore l'ha data Giannelli in una celebre vignetta in cui metteva il capo della maggioranza e il capo dell'opposizione un passo avanti e un passo indietro, e finivano poi tutte e due nel burrone che avevano sotto. Che cosa vuol dire fare un passo indietro in realtà? Cioè significa cambiamo il Presidente del Consiglio, va bene, cambiamo il Presidente del Consiglio, possiamo trovare un Presidente del Consiglio più adatto ad occuparsi di problemi di economia, ma è tutto qua il problema politico italiano in questo momento. Giuliano Amato dice che il problema politico italiano non è quello di sostituire Berlusconi. Ora, naturalmente la piccolissima polemica mia, non era riferita alla presenza di Giuliano Amato, assolutamente. Io non sono un giovanilista, penso che se una persona ha delle cose interessanti a dire le può dire anche a 50, 60, 70, 80 anni, 90 anni. Dico semplicemente che c'è un programma che si propone di cambiare la classe dirigente italiana, cosa abbastanza ardita, e cosa che secondo me un programma televisivo, radiofonico non dovrebbe fare, e poi si contraddice nello stesso tempo, ma insomma è un gioco, un divertissement. Carmelo da Milano, buonasera. Sì, buonasera Cusani. Chiamavo per... mi ricollego un attimo a quello che diceva adesso Amato, e sono d'accordo anche, come avete aperto voi la trasmissione, cioè che il problema adesso non è cambiare il Presidente del Consiglio. No, ma io non so nemmeno se non sia questo il problema. Secondo me non lo è, ma il punto è che quando uno non ha niente da dire nella politica italiana, da un po' di anni a questa parte, in particolare negli ultimi mesi, quando non c'è niente da dire su nulla, eccetera, si dice basta, bisogna cambiare Presidente del Consiglio, non se ne può più, vada via e si apre un nuovo periodo, che poi non si sa mai che cosa proporre. Alcuni propongono un governo di salvezza nazionale, altri un governo del Presidente, altri un governo per fare due cose minime che poi non si capisce quali sia, la riforma elettorale su cui non è d'accordo nessuno e le riforme economiche che non si capisce quali possano essere, insomma è tutta una cosa confusionaria. Dunque quando uno non ha nulla da dire dice che bisogna mandare via Berlusconi e fare non so che cosa. Sì sono d'accordo, cioè un po' tutta fuffa, nel senso che non si è sentita una proposta intelligente. Detto questo, cioè io chiamavo per dire che mi ricollegavo a quel discorso che ha detto Berlusconi, che avete ripreso 5 minuti fa, che dalla fine dell'Ottocento si tornerà al pareggio di bilancio, e che grazie sì, a quelle stupidaggini. Grazie alla nuova di bilancio abbiamo salvato l'Italia. Io mi sono fatto un po' una risata perché ho pensato, caspita, fosse stato per Berlusconi, se nessuno gli avesse messo pressione, a quest'ora la manovra sarebbe stata quella da una manciata di miliardi per i primi anni e tutto dopo le elezioni, come ci aveva in mente lui all'inizio. Quindi sinceramente la manovra, tutte le varie versioni, anche quella di adesso, sono tutte a sostegno del consenso della politica. A me, io ho 31 anni, sono probabilmente fra quelli che andrà in pensione a 70 anni, a me un po' irrita il fatto che adesso per salvare quelli che devono andare in pensione fra un anno o due anni, noi dobbiamo lavorare, cioè nel senso, se si fa una cosa la si fa per tutti, cioè... A proposito del salvare il risparmio delle famiglie italiane. Eh sì. Grazie Carmelo. Andiamo a Bolzano. Giancarlo. Buonasera. Dica. Ma ci sono due aspetti che andrebbero considerati. Primo, il meno importante, però secondo me interventi come quelli della signora Alfano sono la miglior pubblicità per Berlusconi. Ci sarebbe da pensare che Berlusconi gli sovvenzioni. Perché se uno vuole trovare un limite a Berlusconi col popolo italiano, non deve trovarlo nel fatto che parla male dei tedeschi o che gli piacciono le donne, ma trovarlo nel fatto che in 17 anni le tasse non sono state ridotte, certo, che in 17 certo. anni non è stata cambiata la magistratura. E lì è il problema di Berlusconi. Se lo vediamo sulla questione delle donne non andiamo lontano. E figuriamoci sulla questione della mafia poi. Non entro su questo. Invece volevo fare una proposta veramente di sinistra e comunista. Sì. L'Italia adesso dovrà affrontare a breve probabilmente un'altra manovra economica. Ora, l'Italia vent'anni fa ha deciso di cambiare radicalmente il sistema pensionistico. Per cui di fatto in Italia esistono due classi di persone. Sì. Quelle che vanno in pensione sovvenzionate dai lavoratori di oggi col sistema retributivo. Sì. E quelle che andranno in pensione tra 20 anni. Sì. Con il... Allora qual è la sua proposta, scusi? La mia proposta sarebbe quella di alzare radicalmente l'età pensionabile. Beh, Giancarlo, però non mi sembra una proposta nuova, per carità, con me sfonda una porta aperta, non mi sembra aria, nonostante le proposte che ci sono state, e stavolta un'opportunità vera che c'era di fare una cosa drastica da questo punto di vista e mettere a posto una situazione che comunque entrerà in difficoltà tra qualche mese. La ringrazio molto, Giancarlo, devo andare un po' più veloce. Fabrizio da Macerata, buonasera. Pronto? Sì, dica. Sì, buonasera. Il radioascoltatore di prima mi ha anticipato su quello. Non c'è problema, dica pure. Stavo tornando a casa, ascoltavo l'intervento della parlamentare Alfano. Sì. E niente, sono rimasto ancora una volta deluso dall'opposizione che abbiamo in Italia, perché è completamente vuota e priva di significato. Vabbè, non è che la signora Alfano... riassume l'opposizione. Concludo solo il mio intervento dicendo che un parlamentare italiano ha la possibilità 15-20 minuti di andare in onda su una trasmissione come la sua, che è una trasmissione molto seguita. Non capisco come siano così vuoti da potersi perdere 20 minuti a parlare che Berlusconi deve essere processato. Fai parte di un partito, cerca di approfittarne per dire quali sono i buoni propositi del tuo partito. No, veramente questa non è una trasmissione in cui uno fa l'elenco delle cose che vuole fare, perché altrimenti sarebbe una noia mortale. La ringrazio, dobbiamo chiudere questa sera. Roberto da Roma, Stefano da Milano, ci sentiamo domani 18:30 La Zanzara. Ciao. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupare. Radio 24. La passione si sente.